La Chiesa Cattolica sta avviandosi alla beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Il Corriere della Sera un parere in proposito lo chiede a Beppe Signori, calciatore, a Valeria Marini, attrice, a Rocco Barocco, stilista, ad Antonio Di Pietro, virtuale leader carismatico, e a Mike Buongiorno, noto fenomenologo. La Chiesa Cattolica annuncia la revisione delle norme per gli esorcisti. Sono vecchie, risalgono al 1614, e come gli antibiotici nei confronti di germi e batteri che si sono fatti più forti, insomma non fanno più l'effetto di un tempo. Un parere in proposito viene chiesto alla presidente della Federazione Italiana Psicologi. Ad un calciatore può riuscire un gol, alla Marini può reggere per qualche mese in più qualche ammasso cellulare determinante, a Rocco Barocco può riuscire una sfilata più trasgressiva, come si suol dire, del solito, a Di Pietro può andare in porto un referendum o una frase sintaticamente corretta, a Mike Buongiorno può capitare una serata senza gaffe. Tutti miracolati, competenti, e competenti perché miracolati, come gli psicologi. Riuscito l'esorcismo, cacciato il demonio, è pronto il cliente. In periodi di ecumenismo ci si aiuta tra chiese,